nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Molto seria, infatti anche 500 euro fanno un gran comodo, caro Mauro. Ma cara mia, cara Deborah, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Ma io dico, come già mi è capitato di ricordare ieri, meglio che perdere l'ombrello esatto. In un giorno di pioggia. Sì, io avevo utilizzato un'altra metafora, però diciamo il senso è quello. E quindi, allora, se ci sono ce li portiamo a casa. Il tema è però come fare per prenderli. Parliamo di nuovo del bonus culture, 500 euro per Donnarumma e tutti i suoi amici. Donnarumma per il 99, ma questa volta, cara Deborah, il problema non riguarda Donnarumma, bensì nati nel 98. Esatto, che avrebbero Donnarumma dovuto invece già è un ragazzo del 90. Sì, esatto. Sai che le mie competenze calcistiche sono ridotte ai minimi termini. Esatto. Allora, qual è la questione? Che ci ha chiamato una mamma preoccupata perché ha fatto tutta la regolare domanda per ottenere i 500 euro quando doveva farlo, naturalmente. Quindi si è iscritta alla piattaforma 18app, ha fatto la SPID, ha costituito la sua identità digitale, quella per suo figlio. Quando poi ha dovuto fare richiesta materiale dell'utilizzo di questi 500 euro non è stato consentito, e poi ci faremo raccontare le motivazioni. Come mai? Perché? Allora, questo è uno dei temi di cui parleremo stamattina. Perché ma poi parliamo anche... L'agenda è ricca. Sì, agenda ricca, perché è il momento in cui si comincia a pensare alla riaccensione dei termosifoni e allora parleremo delle termovalvole. Ma anche poi... se, tra l'altro, sto weekend, il 15 ottobre, si può farlo da Milano, ma pare che arrivino 25 gradi, per fortuna non avremo bisogno. Risparmieremo qualcosa sul riscaldamento tutti quanti, e poi naturalmente incombe su di noi la scadenza di lunedì prossimo per gli affitti brevi, nota anche come tassa Airbnb, ma insomma la tassa sugli affitti brevi tocca andare a pagare. Allora noi abbiamo convocato, oltre alla mamma che ringraziamo, Claudia da Firenze, che ci racconterà la vicenda del suo tormentato bonus per i diciottenni, abbiamo convocato due colleghi del Sole 24 Ore. Esatto, e poi anche un esperto sul tema delle termovalvole. Allora, estraete a sorte l'argomento su cui intervenite, fate quello che vi piace di più, e chiaramente potete però chiamarci, per questo la modalità è una sola, all'800 24 00 24. Se avete delle domande su questi argomenti, noi siamo pronti a rispondervi. In alternativa, se non riuscite a telefonare, però ci sono gli SMS, c'è WhatsApp 349 238 6666. Ma se non vi piace neanche WhatsApp, allora vi diamo anche una email. Due di denari, è scritto a lettere, due di denari, chiocciola radio24.it. Vedo che l'alfabeto lo sai, bravo. Sì, mi sono preparato prima questa cosa per molto tempo. Potete seguirci anche su Facebook. Grazie, ci seguite in tanti, infatti, vi ringraziamo. Adesso condividiamo anche sui nostri profili personali il live di questa mattina. Tutte le informazioni di servizio le abbiamo date, siamo pronti a partire. Andiamo. Questo gruppo io lo ascoltavo a Londra quando ci sono andata per la prima volta, era qualcosa tipo il 96. Ah, quindi eri minorenne praticamente. Sì, certo, come no. Infatti, facevi le elementari. Supergrass, se non mi ricordo male. Adesso brava, devo verificare. Brava. È vero? Sono i Supergrass. Vero? Guarda, sì. Pensa che ricordi. Questa canzone va sempre bene, addirittura la scomodiamo per i diciottenni di oggi. Io ne avevo un po' di più, però... Insomma, il tema è, caro Mauro, come abbiamo già preannunciato ai nostri ascoltatori, che qualche giorno fa abbiamo ricevuto una mail da due genitori di un diciottenne che non hanno avuto un buon esito per la pratica bonus cultura, riconosciuto lo scorso anno ai nati del 98 e quest'anno ai nati del 99, quindi anche Donnarumma. Allora, invece della mail, che cosa abbiamo fatto? Invece di leggere la mail, abbiamo sentito direttamente la mamma che ci ha scritto preoccupata, ed è la signora Claudia. Buongiorno. Buongiorno. Mamma di? Filippo. Benissimo. Del 98. Allora, perché Filippo non è riuscito? Ci racconti la sua traversia. Perché Filippo non è riuscito a ottenere questi 500 euro? Non è riuscito come tanti altri con cui sono in contatto. Perché noi abbiamo fatto lo SPID il 25 gennaio del 2017, e come era stato richiesto, perché sembrava che la scadenza fosse il 31 gennaio. Poi il giorno dopo abbiamo fatto l'accesso a 18app, come risulta anche da una mail che ci è arrivata con... verifica con successo dell'accesso, e poi diciamo che non ce ne siamo più preoccupati, pensando non ci servivano, e al momento che a settembre ci siamo decisi, perché ci servivano questi 500 euro per comprare libri dell'università, abbiamo acceduto con tutte le nostre credenziali e il sistema poi ci ha detto che la scadenza per accedere era il 30 di settembre, il 30 di giugno. Ah. E quindi non impedendoci di andare avanti. E quindi a questo punto ho chiamato il numero verde che scompare nell'applicazione e loro mi hanno detto che non ero l'unica, che sapevano che c'era stato un problema nel sistema e che stavano cercando di risolvere il problema, che però non era una cosa semplice, ci avrebbero fatto sapere tramite la pagina Facebook ufficiale di 18 app. Però ad oggi non abbiamo saputo niente, ci stiamo un po' muovendo con altri genitori. E con no, avete anche 98. Organizzato una petizione, no? Che è possibile firmare, peraltro. Sì, sì, abbiamo organizzato una petizione e abbiamo raccolto più di 300 firme per ora, e perché vogliamo risolvere questo problema, che non dipende da noi, è un problema del sistema. Ecco. E abbiamo noi... Spendere 500 euro per un problema che non dipende da noi. Ma ecco. Certo, anche perché questo denaro bisogna capire se da qualche parte ci fosse stato scritto che erano a scadenza questi 500 euro. Io non credo, però chiamo in causa Valeria Uva, perché la collega Valeria Uva, Valeria Uva è una collega che si è occupata a più riprese sul Sole 24 Ore, e l'avete ascoltata anche qui a Due di Denari, del bonus ai diciottenni, e quindi è forse la collega più preparata, oserei dire, in Europa sulla materia. Valeria, questa vicenda di malfunzionamento ha colto un po' di sorpresa, mi pare, anche gli stessi organizzatori, è così? Sì, è così, buongiorno innanzitutto. Devo dire, il bonus 18 app in realtà sta avendo e ha avuto molto successo, e questo è innegabile, e forse proprio per questo appunto sono nati poi dei problemi tecnici dovuti anche un po' alla partenza decisamente lenta con cui sono stati erogati questi 500 euro, parlando soprattutto per i ragazzi del 98. Cosa è successo? Il caso della signora è emblematico e non è l'unico, come lei stessa diceva. La partenza lenta del bonus del 98, che ricordiamo ha cominciato a essere disponibile soltanto dal 1 novembre dello scorso anno, quindi 11 mesi dopo la sua di nascita. Un traguardo sì che... quasi come quello dell'app volontaria, insomma, chiusa sì, parentesi. Sì. Esatto. Peraltro per i ragazzi del 99 si è fatto un po' meglio, ma non troppo, perché anche loro hanno dovuto aspettare fino allo scorso 19 settembre, quindi non è che si è riusciti a migliorare di molto. Ma per, comunque... per essere un bonus per giovani non ha proprio una velocità da giovane, ecco. No, mettiamola assolutamente così. No. Assolutamente la speed è lenta. Quindi proprio per via di questa partenza lenta il governo ha deciso di prorogare i tempi di iscrizione e di utilizzo del bonus stesso. Dal 30 gennaio, ricordava la signora la scadenza, si è passati al 30 giugno del 2017. Questo ha fatto sì però che, per un meccanismo tecnico credo, i ragazzi che bravissimi si erano registrati per tempo, avevano fatto le cose con più velocità ed erano già registrati con successo anche a 18 app, non hanno capito, soprattutto nessuno glielo ha spiegato, che dovevano riregistrarsi, cioè la farraginosità tecnica ha fatto sì che la loro registrazione è stata in un certo senso troppo anticipata rispetto a quanto consentiva la stessa 18 app. E questo è uno dei problemi segnalati, ma non è l'unico. Ci sono state anche difficoltà tecniche per quanto riguarda il cosiddetto accesso al portafoglio, cioè l'effettivo utilizzo del bonus, e ci sono poi persone che non hanno capito, diciamo così, anche in questo caso, ma anche lì perché il percorso era molto tortuoso, il fatto che non bastasse avere lo SPID, ricevere lo SPID per essersi iscritti al bonus 18 app. Era necessario un passaggio successivo che era anche la registrazione fino a termine, fino alla accettazione della normativa al bonus 18 app. Però ecco, Valeria, perché su Facebook si sta sviluppando un movimento che chiede un po' una proroga, no? Infatti, perché il tema è capire se li devono dar per persi completamente questi soldi o meno. Allora segnaliamo peraltro che c'è un ascoltatore che ci racconta che lo stesso è capitato a sua figlia, e Marco da Bergamo, e chiedere come fare per poter firmare la petizione, poi da mamma Claudia magari ci facciamo dare delle indicazioni in questo senso. No, volevo precisare una cosa con Valeria, anzi due. L'una è che proprio in riferimento a quanto diceva Deborah ora, non tutti i potenziali richiedenti l'avevano richiesto per il 98, me lo ricordo perché tu stessa l'hai scritto sul Sole 24 Ore, e quindi ci dovrebbe essere modo di riassegnare questi fondi che si sono visti un po' bloccati inaspettatamente. Esatto, di fatto circa il 60-65% di quelli, delle persone aventi diritto si sono registrati, ma ci deve essere anche una percentuale di persone che appunto non sono riuscite tecnicamente a entrare. Il problema qual è? È che per prorogare, o meglio per riaprire questo termine del 30 giugno, è necessaria una modifica di legge, perché questo è stabilito per legge, e quindi il veicolo, diciamo così, deve essere una legge in arrivo, potrebbe essere per esempio la manovra del 2018, visto che proprio con le manovre questi bonus sono stati creati. Ecco, certo, allora, non si capisce perché sia necessaria poi una scadenza di iscrizione diversa rispetto a quella di utilizzo del bonus. Certo. Ricordiamo appunto che questo vale anche per i ragazzi del 99 che hanno tempo fino al 30 giugno del 2018 per iscriversi anche alla 18 app, diciamo così, non soltanto per avere lo speed, quindi per completare tutti i passaggi. Esatto, ed era quello che volevo chiederti, perché tu hai segnalato tre tipi di problemi. In due casi però, cioè eccesso di tempestività, questi ragazzi sono stati troppo bravi, si sono iscritti troppo presto e in qualche modo si è perduta la loro possibilità di usufruire del bonus. Oppure hanno riscontrato altri problemi tecnici nell'iscrizione a 18 app e quindi per un qualche motivo di quelli misteriosi dell'informatica l'iscrizione è andata persa. Poi c'è invece il problema di chi ha fatto solo la speed e non l'iscrizione a 18 app. Qui invece c'è, come dire, una carenza da parte dell'utilizzatore, perché forse non era neanche così chiaro, non basta la speed, ci vuole la speed prima e poi l'iscrizione a questo 18 app. Detto questo, Valeria, sarà il Ministero dell'Istruzione a doversi pronunciare in qualche senso per queste famiglie in attesa? Dell'istruzione, ma soprattutto dei beni culturali, perché in realtà la gestione pratica, diciamo così, tecnica di questo bonus dipende in parte da loro. In realtà il bonus è diciamo le dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché i decreti attuativi sono decreti direttamente di Palazzo Chigi. Di fatto però il numero verde che l'ascoltatrice segnalava, e che io ripeto che è 800 99 11 99, è alle dipendenze del Ministero dei Beni Culturali, perché ricordiamolo che questo è un bonus da spendere cultura, in cultura. Esatto. Segnalerei anche, se ho un certo, tempo certo, più, un altro problema che sta nascendo e sta scontentando un po' i diciottenni e i diciannovenni. Il bonus per i ragazzi del 99 è stato esteso a grande richiesta alla musica non live, diciamo, ma anche alla musica registrata, digitale, quindi l'acquisto dei CD, dei dischi e anche streaming. Com'è? Anche in streaming, anche cioè in streaming, anche non su supporto fisico, voglio dire. Esatto, e anche ai corsi di formazione, ad esempio un corso di lingue può essere frequentato con il bonus 18 app. Però cosa succede? Che questa estensione è valida soltanto per i ragazzi del 99, anche in questo caso i ragazzi del 98 quindi sono un po' diciamo penalizzati, e per applicarla, per estenderla anche a loro, sarebbe necessaria anche qui una modifica normativa, e molti se ne stanno lamentando su Facebook. Allora, tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive un sms un po' spiritoso che dice è bellissimo, lo vorrei ringraziare, perché ci chiede: scusate, ma la gestione informatica è quella è affidata alla stessa società dello spesometro? No, devo dire così, che c'è però da dubitarlo, però infatti, sicuramente potrebbe darsi che qualcuno si sia occupato prima del bonus 18 app e poi dello spesometro. Esatto. Perché signora Claudia, la vostra petizione l'avete creata su change.org, giusto? .org. Esatto, sì. È una petizione, risolviamo il problema 18 app, e appunto chi vuole firmarla, perché appunto per tutti i problemi che ha anche presentato la giornalista, sinceramente la cosa ci preme parecchio, anche perché benissimo, i tempi in teoria stanno per scadere. Esatto. E poi guardi, alla fine della fiera potrebbe anche essere banalmente una battaglia di principio, non si capisce per quale motivo, insomma, adesso uno volesse far valere dei diritti un po' campati per aria, ma voi avete fatto tutto regolarmente solo per il fatto di non aver speso immediatamente questa cifra disponibile appunto sul portafoglietto, com'è che si chiama, il borsellino elettronico. Ci sembra assurdo. Fateci sapere come va, naturalmente, soprattutto se sarà Valeria a monitorare. Valeria, che oramai io eleggerei a patrona del bonus. Esatto, a questo punto. Massima esperta non europea, ma a questo punto mondiale. Sì. Benissimo. Grazie, grazie a Valeria Uva, alla signora Claudia da Firenze per averci aiutato a ricostruire questa vicenda, della quale ovviamente non si è ancora detta l'ultima parola. Noi ci torneremo, intanto andiamo al prossimo argomento. Yeah, allora, in questo caso non abbiamo dovuto scomodare la sigla di Chi l'ha visto. Si parte questa volta senza più rinvii. Entro lunedì prossimo, e se non abbiamo capito male lo faranno praticamente tutti per la prima volta, gli intermediari immobiliari verseranno la ritenuta del 21% sui canoni pagati a partire dall'11 settembre scorso dai loro clienti inquilini ai clienti proprietari per affitti brevi. In pratica parte ufficialmente la Airbnb finalmente, tax. Dopo lunga gestazione, perché se ne parla dalla manovra cosiddetta di primavera. Sono dei parti elefantiaci quest'anno, insomma, tra bonus cultura, ape volontarie, questa. Diciamo che ci vuole sempre il suo tempo, come ci spiegherà appunto Saverio Fossati, che ci ha raggiunto qui in studio. Buongiorno Saverio, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Sepolto dal microfono, chissà se gli amici di Facebook lo stanno vedendo, ma insomma c'è, vi assicuriamo che c'è. E Saverio, allora, finalmente partiamo, cioè si parte con questo versamento che sarà lunedì prossimo. Allora ridiamo un po' le coordinate fondamentali di questa tassa sugli affitti brevi, nota anche qualche volta come tassa Airbnb. Sì, la chiamano tassa Airbnb perché l'idea originaria, che era già stata proposta nella legge di bilancio 2017, era quella di costringere un po' il pagamento di questi affitti stagionali, quelli sotto fino a 30 giorni. Sì. Perché? Ma semplice, perché nessuno li pagava le imposte. Cioè. Perché non hanno obbligo intanto di registrazione. E quello è il trucco. Siccome non hai obbligo di registrazione, per ovvie ragioni di praticità e di comodità, giuste ragioni, in pratica l'unici che sanno di questo contratto sono il proprietario e l'inquilino. E quindi perché mai il proprietario dovrebbe pagare le tasse? Dovrebbe pagarle perché certo, è previsto dalla legge, e perché le tasse saranno a pagare le strade ragione su uno cui deve cammina pagare le tasse. E l'ospedale nel quale va. Voglio prendere le distanze da quanto state dicendo. Sì. Le tasse si pagano. Vorrei chiarire. Infatti, quello che stavo cercando di dire. Chi non le paga è perché evidentemente non cammina sulle strade, non usa il marciapiede, non va in ospedale, non gli serve mai un vigile urbano o un magistrato, esatto, per chiedere è una cosa. È la spintina comunque gentile di Thaler. Ah, è vero, ne parlavamo proprio ieri. Esatto. Quindi Saverio, che succede? È successo lunedì che in questa norma, che era stata ventilata nel 2017, però Renzi allora disse: come una nuova tassa, non si fanno nuove tasse, perché non aveva capito a cosa serviva, e quindi tutto rimase bloccato fino a primavera. A primavera finalmente capì di cosa si trattava, e consisteva essenzialmente in questo: gli intermediari abilitati, cioè quelli da cui passa una gran parte degli affitti turistici, gli intermediari, quindi Airbnb, che però sta facendo un contenzioso per non essere, esatto, qualificato, aspettiamo, come intermediario, e le agenzie immobiliari, che invece sono sicuramente intermediari e lo hanno sempre detto e accettato, devono trattenere alla fonte una ritenuta del 21% sul canone, diciamo così, pagato dall'inquilino, e che loro poi prendono e riversano al cliente. Quando quindi non c'è l'agenzia, ma il versamento avviene direttamente dall'inquilino al proprietario, questa ritenuta non scatta, perché nessuno la deve fare. La deve fare l'intermediario, non il proprietario. Il proprietario però manterrà invece a suo carico l'obbligo del, certo, versamento della dichiarazione dei redditi, sì, e del riporto in dichiarazione di quanto incassato. E potrà scegliere se considerare questo 21% come un acconto, oppure, sì, una ritenuta a titolo di imposta, cioè cedolare. Questo cosa vuol dire? Che chi ha una certa aliquota di imposta potrà vedere, magari può capitare che succeda, che per recuperare una parte delle detrazioni che gli spetterebbero, e che così non gli spettano perché è incapiente, perché una aliquota IRPEF molto bassa, può scegliere di pagare con l'IRPEF. Però sono casi molto isolati. Il 90% dei proprietari sceglieranno ovviamente la cedolare secca, cioè si paga il 21% e basta, comprende anche l'imposta di registro se qualcuno volesse registrarlo, ma comunque È un salto, mi sembra una buona aliquota, tutto sommato, è quella che poi si applica anche agli affitti, esatto, di mercato, secca, sì. Quindi 21%. L'intermediario è chiamato in causa il 16 ottobre, quindi ricordiamo che questa scadenza riguarda solo gli intermediari, solo le agenzie immobiliari e in teoria anche i portali, anche Airbnb, che però ha un contenzioso in corso sia al TAR del Lazio, sia contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In virtù di questi contenziosi aperti, ritieni che il trasferimento delle imposte lo facciano lunedì prossimo oppure lo sospendano proprio in attesa del secondo me stanno aspettando che il TAR faccia una sospensiva. Da qui a lunedì potrebbe esserci. Sì, potrebbe succedere, potrebbe accadere, certo. E quindi non sarebbero tenuti a versare questi però che hanno il contenzioso in corso, sì. Non stiamo parlando genericamente di quegli altri soggetti che citavi, sì. Tipo gli agenti immobiliari, sì. Eccetera, questi sono tenuti. Sono tenuti e non contestano perché hanno fatto un tavolo con le entrate proprio nei mesi scorsi. Per riuscire a capire bene come dovevano fare, adesso si è tutto, diciamo, praticamente quasi tutto chiarito, quindi gli agenti immobiliari 16 ottobre possono andare tranquillamente a pagare il loro F24 serenamente. Esatto. Quello perché la modalità è questa, intanto. Sì. Allora, intanto che il TAR decide sulla sospensiva, la sospensiva la facciamo noi, però ricordatevi che anche mentre c'è la pubblicità o intanto che vi aggiorniamo sui mercati, potete continuare a telefonarci 800 24 0024, potete scriverci con SMS, con WhatsApp 349 238 6666. Parliamo di tassa sugli affitti brevi, parleremo anche di termovalvole e riscaldamenti, ma tutto questo dopo che Debora le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. Allora, vabbè, non è proprio una canzone calzante in questi giorni perché... No, però io sono grato perché abbiamo messo prima Taxman dei Beatles, adesso mettiamo Nada, no? se non mi sbaglio. E quindi è tutta un po' musica dei miei tempi. Vorrei, esatto, ringraziare Marco Lombardo per la selezione. Anche dei miei, guarda. Adatta a chi ha i capelli bianchi. Allora, perché abbiamo scomodato Nada? Perché... oltre alle questioni di cui stiamo parlando, e adesso completiamo il cerchio sulla tassa Airbnb, perché ci sono alcuni ascoltatori con delle curiosità, delle domande che raccogliamo volentieri all'800 24 0024. L'altro tema che vorremmo approfondire questa mattina riguarda l'accensione dell'impianto di riscaldamento. Allora, da questo weekend le città del nord in particolar modo, perché poi c'è tutta la gradua, un po' come l'avvio dell'anno scolastico, no? È differenziato sul territorio nazionale anche evidentemente l'accensione degli impianti di riscaldamento. Da questo weekend sono autorizzati gran parte delle città del nord, però che cosa succede? Che dobbiamo fare il punto della situazione su quegli edifici che non si sono ancora attrezzati con le termovalvole e gli impianti con il sistema di contabilizzazione e termoregolazione. E quindi la manutenzione, approfondiamo questa quelli parte, che non si sono, sì, messi in regola è tardi per farlo perché dovranno aspettare la prossima primavera, al loro rischio e pericolo evidentemente, perché se arrivano dei controlli sono a rischio multa e sanzione, quella è prevista così, dalla legge. È così. Allora, abbiamo addirittura due ascoltatori per restare ancora qualche minuto sulla tassa per gli affitti brevi. Scegli tu, Debora, allora, Franco o Antonio? Vediamo Antonio, un po'. Antonio da Messina. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Eccoci a lei, ci dica. Allora, io volevo precisare una cosa sugli affitti brevi. Questa legge sull'aliquota del 21%, i portali come Booking.com, per esempio, stanno già risolvendo il problema per evitare il versamento di questa aliquota. Hanno mandato un'email ad alcune strutture dicendo che non saranno più loro ad incassare i soldi del soggiorno, ma l'ospite dovrà direttamente pagarli in struttura. In questo modo evitano completamente il versamento dell'aliquota. Certo, poi quindi... loro faranno una fattura di commissione alla struttura, al B&B, alla fitta camere, e si faranno pagare in questo modo. Ti risulta, Saverio? Vabbè, è quello che dicevo all'inizio, cioè se non c'è passaggio di denaro fra l'intermediario e il proprietario cliente, l'intermediario non deve fare la ritenuta. Ovviamente per lui è una scomodità, è un caos burocratico, e in più il proprietario si vede trattenere fin dall'origine le tasse. Mentre invece se Airbnb non c'è il passaggio, diversa, certo. Mentre invece se non c'è il passaggio, allora il proprietario è lui in prima persona su cui ricade l'obbligo di pagare le tasse, come prima, perché c'è sempre stato questo obbligo. Esatto. Quindi se prima il proprietario evadeva, speriamo che adesso non ne vada più, però l'intervento dell'intermediario in mezzo con l'obbligo di trattenere la ritenuta serviva a far sì che questo 21% qualcuno finalmente esattamente lo l'intermediario pagasse. È diventato, per parlarci in gergo fiscale, il sostituto di imposta in qualche modo. Sentiamo invece quali sono le perplessità di Franco da Mantova, che dice che abbiamo rilasciato un'informazione non corretta. Franco, benvenuto. Buongiorno. Cioè, su questo tema c'è un'informazione poco corretta che gira. Io sono un host, quindi uno di quelli che ospitano e utilizza Airbnb come sito di prenotazione, cioè per ricevere e dare informazioni sul fatto che appunto io ospito persone. Allora, tutte le volte che uno viene a casa mia a dormire, Airbnb a me fa pagare una piccola somma e mi rilascia una regolare ricevuta. Sì. Quindi se lo Stato, il fisco o chiunque vuole tracciare quante persone sono venute a dormire a casa mia, basta che vada a vedere tutte queste piccole ricevute che io caso per caso, ospite per ospite, riceve da Airbnb. Esatto. Mi scusi, cioè, Franco. Cioè non è il fatto che se uno viene da me è sconosciuto, cioè lei sì. Non ci sta ad essere tacciato da potenziale evasore di queste imposte. A parte il fatto che io ho pagato le tasse, io lo faccio da un anno, insomma, non da molto, eccetera. Anche ho cominciato anche scherzosamente questa cosa per vedere com'era, eccetera. Però ho pagato regolarmente le tasse, quindi voglio dire, come qualsiasi normale cittadino, per qualsiasi attività, per qualsiasi reddito. Mi scusi, Franco, la ricevuta che lei riceve da Airbnb, questa sì. Sorta di fattura, sì. Mi pare di capire. Sì, è una fatturina non comprende... di 1,50 euro, una roba del genere. Certo, quindi è il pagamento del, diciamo, servizio che Airbnb sì, esatto, le fa per esatto. mettere sul sito esatto, la cosa. Esatto. C'è sì. Saverio Fossati che voleva precisare una cosa. Grazie, Franco. Allora, su questa fatturina che fa Airbnb e che rappresenta il compenso di Airbnb, esattamente come quella che fa l'agente immobiliare, che è una fattura per la sua provvigione, normalmente non indica qual è il canone che è stato pagato dal cliente inquilino al cliente proprietario, e questo è il nodo. Per cui tutto viene lasciato alla buona volontà del proprietario. Se il proprietario, certamente lo Stato potrebbe, con un'operazione semplicissima che implicherebbe l'assunzione di una cinquantina di persone dedite solamente al controllo informatico dei milioni di delle milioni di locazioni fatte da Airbnb, alla fine dell'anno, per scoprire con un intreccio, per vedere se le persone in questione, cui il codice fiscale si spera sia stato indicato nel contratto di Airbnb, hanno poi effettivamente l'anno dopo, a giugno, versato il loro 21%. Chissà, mi sembra un tantino più pratico che lo faccia l'intermediario, anche a costo di qualche piccolo sforzo. Cioè, era questo l'intento dell'erario, perché altrimenti se uno comincia a controllare uno per uno tutti i clienti di Airbnb per vedere se hanno pagato, sì, insomma, mi sembra abbastanza, certo, lo può fare benissimo, insomma, però non è così che si combatte certo. L'evasione. Senti, allora, tanto per chiudere questo approfondimento, poi velocemente andremo al prossimo, perché abbiamo anche un altro ospite da presentare ai nostri ascoltatori. Giuseppe via mail ci chiede: allora, ditemi una volta per tutte cosa devo fare per mettermi in regola, sia con i pagamenti della cedolare fissa, sia per quello che riguarda la comunicazione alle autorità delle persone che occupano la mia casetta affittata tramite Airbnb. Beh, allora, d'ora in poi è semplicissimo. Se Airbnb insiste a non fare la ritenuta, semplicemente a giugno dell'anno prossimo, per la persona in questione indicherà nella sua dichiarazione dei redditi l'importo dei canoni percepiti, e su questo pagherà il 21%, indicando che ha scelto la cedolare secca, oppure pagherà l'IRPEF se per qualche strana ragione può preferire l'IRPEF. Trattandosi poi sempre tutto di qua. Pernottamenti e affitti brevi, sul tema delle comunicazioni non deve fare nulla. No, non deve fare nulla per quanto riguarda l'imposta di registro, e in teoria dovrebbe comunicarlo però alla PS, cosa che assolutamente nessuno fa, e tutti continueranno a non fare serenamente, perché certo. La PS non è particolarmente interessata. Allora, intanto non vedo l'ora che sia lunedì per capire se nel frattempo le Airbnb autorità, il TAR o le altre autorità che devono intervenire sospenderanno questo pagamento a favore appunto di Airbnb, si pronunceranno nel senso a favore di Airbnb che ha contestato questa novità del fisco italiano. Quindi ancora tema in evoluzione. Per quello che riguarda il prossimo argomento, invece l'abbiamo già introdotto, Mauro. Sì, perché parliamo di termovalvole. Allora, è con noi l'ingegner Luca Rollino. Buongiorno, ingegner Rollino. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Perché dobbiamo tornare sul tema delle termovalvole. Io la ringrazio dell'attesa e le chiedo di aspettare ancora un po', perché sia caldo. Perché adesso, come sanno gli ascoltatori di Due di Denari, è il momento del traffico. Due di Denari. Che noi proviamo a far digerire tutti questi argomenti con le colonne sonore ai nostri amici, no? Rendiamo con la nostra autorevole leggerezza che comprende anche qualche passaggio musicale qua e là. Ingegner Rollino, buongiorno. Allora, è il momento dei riscaldamenti ed è il momento delle termovalvole, obbligo che si è trascinato negli anni, perché ne abbiamo scritto, riscritto, parlato a Radio 24, riparlato a Radio 24. Beh, adesso però, se uno la termovalvola in condominio non l'ha messa, che succede? È un grosso problema, perché in realtà non è un problema che nasce con la riaccensione del riscaldamento, è un problema che è nato il primo luglio, in quanto il primo luglio scadeva la proroga per adeguarsi, quindi in realtà è dal primo luglio che tutti dovrebbero aver installato sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione all'interno degli edifici dotati di impianto centralizzato. Il problema diventa maggiore adesso con l'accensione dell'impianto di riscaldamento, dove dal 15 ottobre si accenderà chiaramente, e stiamo parlando delle zone più fredde d'Italia, zona climatica E, quindi Milano, Torino, zona climatica F, Cuneo, Sondrio, giusto per dare alcuni riferimenti. Ebbene, con l'accensione dell'impianto, a tutti gli effetti, un qualsiasi adeguamento in corsa non è più possibile, perché l'installazione di questi sistemi è possibile soltanto con l'impianto spento. Quindi anche qualora ci sia la volontà di mettersi a posto, anche qualora ci sia, non si potrà più, bisognerà attendere la primavera. A meno che le otto brate, come dire, continuino, perché c'è bel tempo e quindi magari qualcuno potrebbe approfittarne. Detto questo, appunto, il buon senso. O meno che tu abiti in zona climatica A o B e lì si aspetta fino a dicembre, quindi c'è ancora tempo per intervenire. In realtà c'è ancora un po' di tempo. Insomma, c'è Simone da Crema che ricorda che effettivamente molti condomini non si sono messi a posto. Simone, buongiorno. Non so. Allora, secondo noi non sono tantissimi in Italia quelli che non hanno ottemperato la nuova normativa, però qualche grattacapo in qualche edificio in realtà c'è. Simone. Sì, buongiorno. Intanto volevo confermare quello che ha detto chi mi ha preceduto, ma soprattutto confermo questa cosa qua, che c'è un po' una poca volontà da parte degli amministratori. Io mi occupo di contabilizzazione, nel senso che vendo materiale per contabilizzazione. C'è una poca volontà degli amministratori di effettuarla, perché per loro è un problema. E soprattutto ci sono degli amministratori che hanno trovato dei termotecnici che hanno dichiarano che la contabilizzazione diventa antieconomica per il loro condominio. Ma in realtà la legge lo consente, insomma, di certificare il caso in cui, ingegner Rollino, nel caso in cui non sia vantaggioso per il condominio dotarsi di questo nuovo sistema, in realtà la legge mi pare che consenta di poterlo fare, quindi... Assolutamente sì, però bisogna fare alcuni distinguo, a mio avviso, giusto per chiarezza nei confronti di chi ci sta ascoltando. Allora, noi abbiamo due tecnologie a disposizione, una contabilizzazione diretta e una contabilizzazione indiretta. La contabilizzazione diretta per il legislatore è da preferirsi, infatti dà priorità 1 più alta alla contabilizzazione diretta, però il legislatore dice: qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente non conveniente, allora puoi valutare e quindi procedere all'installazione di un sistema di contabilizzazione indiretta. La contabilizzazione indiretta materialmente sono le valvole e i ripartitori sul radiatore, mentre la contabilizzazione diretta sono i contacalorie. Anche per la contabilizzazione indiretta noi abbiamo la possibilità di non installare qualora non ci sia convenienza economica. Però facciamo molta attenzione, perché la convenienza economica deve essere valutata per l'intero condominio e la convenienza economica deve essere valutata attraverso un calcolo analitico dettagliato, perché in caso di controllo da parte di un funzionario pubblico, bisogna dimostrare analiticamente perché si è scelto di, si è potuto non installare sistemi di contabilizzazione, certo, e termoregolazione. Quindi valutazioni sbrigative sono molto rischiosi, pur essendo previsto dalla legge la non convenienza economica come eccezione alla regola generale. Mi sia concesso un ultimo inciso su questo argomento: c'è da considerare che la non convenienza economica a volte si verifica, ma per edifici scarsamente abitati. Quindi stiamo parlando grosso modo delle seconde case, giusto per intenderci. Quindi potrebbe essere il caso del condominio in cui di una località magari più usata per seconda casa, per turismo, laddove non c'è una necessità perché magari questo condominio viene abitato solo per pochi mesi all'anno. In questo caso sarebbe giustificato la mancata installazione della termovalvola, ho capito bene? Esattamente. In questo caso un'analisi dettagliata dei costi, dei benefici economici che l'installazione di valvole termostatiche e sistema di contabilizzazione comporterebbe, bene, un'analisi dettagliata porterebbe al risultato di una non convenienza economica, cioè costerebbe di più installare di quanto si potrebbe derivare come risparmio economico ed energetico negli anni futuri. Certo. Però sono casi particolari, non so, seconde case in zona di villeggiatura estiva dove il riscaldamento d'inverno praticamente non è utilizzato perché non ci va mai nessuno, ma ripeto, non è il caso delle grandi città come Torino, Milano, dove sono tutte prime case. Abbiamo compreso. Quindi attenzioni anche alle certificazioni, allegre, mi da dire mendaci, esatto, sì, un po', esatto, superficiali. Ecco, ricordiamo anche magari, ingegner Rollino, per gli irriducibili di questo dell'installazione appunto delle termovalvole, per coloro che proprio non ne vogliono neanche sentir parlare, a che cosa potrebbero andare incontro qualora scattasse un controllo da parte delle autorità preposte. Intanto chi lo può fare questo controllo, chi ha il diritto di poterlo fare, soprattutto che tipo di sanzione c'è? Dunque, il controllo viene effettuato dalle regioni e le regioni poi, ogni regione decide a che ente interno delegare. Tanto per fare un esempio, normalmente le regioni del nord hanno deciso di delegare ad ARPA il controllo per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di contabilizzazione e termoregolazione, però ogni regione può, diciamo, avvalersi di enti strumentali con cui effettuare queste verifiche. La verifica viene fatta innanzitutto facendo riferimento ai documenti che sono depositati presso il catasto degli impianti termici a livello regionale e poi successivamente con dei controlli in campo. Le sanzioni sono molto pesanti perché sono sanzioni pecuniarie, chiaramente, che possono andare dalle 500 alle 2500 euro a unità immobiliare. È una sanzione riferita al proprietario dell'appartamento, dell'unità immobiliare che non ha installato, e quindi teoricamente potremmo avere anche sanzione ad personam, nel senso potremmo avere un proprietario di un'unità immobiliare che nonostante il condominio si sia adeguato non abbia installato a casa propria le valvole termostatiche e i ripartitori o il sistema di contabilizzazione, e lui sarebbe l'unico sanzionato in tutto il condominio, perché alcuni, diciamo, alcuni irriducibili hanno deciso di trincerarsi nel proprio appartamento e hanno deciso di non far installare, barricati per non far installare le termovalvole. Esattamente. Grazie ingegnere, però io volevo richiamare in causa per questo proposito proprio Saverio Fossati. Poi tra l'altro Saverio si occupa anche del quotidiano del condominio, che è un quotidiano digitale che viene dato agli abbonati, che appunto a questo quotidiano lo trovate su internet, quotidianocondominio.ilsole24ore.com, e Saverio mi segnalava, e sul stesso quotidiano del condominio sono stati segnalati appunto anche le difficoltà di effettuare questi controlli, perché mi sembra che le risorse disponibili non siano enormi, giusto Saverio? No, mi risulta che in Piemonte ci siano poche decine di ispettori. Avendo parlato, ma è un convegno dove credo fosse presente anche l'ingegnere Rollino, avendo parlato con uno di questi ispettori. In Lombardia penso che la situazione sia la stessa, ma si tratta di controllare centinaia di, probabilmente, no, centinaia no, ma insomma, molte decine di migliaia di impianti centralizzati, quindi le probabilità di essere beccati sono abbastanza scarse. Questo non è naturalmente un invito a non mettere questi benedetti contabilizzatori, sulla cui utilità alcuni si pongono qualche domanda, perché il contabilizzatore in sé per sé, in uno stabile vecchio dove non sia stata effettuata o non sia prevista alcun tipo di riqualificazione energetica, ha come effetto quello di spostare, diciamo così, il costo dei consumi da una situazione più omogenea, basata sul calcolo dei metri cubi più o meno dell'appartamento, del numero dei caloriferi, a chi è più meno fortunato, perché ha magari l'appartamento esposto a nord, quindi, o in alto o in basso, a vantaggio di chi invece sta nel mezzo. Allora, grazie all'ingegner Rollino, grazie a Saverio Fossati, siamo arrivati in chiusura. Esattamente, però naturalmente promettiamo come sempre che torniamo anche domani, e giovedì ci sarà Investire Informati, e quindi occhio al vostro portafoglio, vi racconteremo cosa succede sui mercati in questo periodo. E allora